Simone Spezia. In Ucraina proseguono le violenze durante le proteste a favore degli accordi con l'Unione Europea. Ci sono almeno due vittime tra i manifestanti. Polizia e contestatori si fronteggiano ancora. La condanna di Bruxelles che dice stiamo valutando azioni. Ancora tensioni nella maggioranza. Scelta Civica attacca Renzi, il nostro partito ridicolizzato e preso a calci. Serracchiani chiede le dimissioni di Zanonato. Sulla legge elettorale Grillo avvia una consultazione online tra gli iscritti. Modena conta i danni dell'alluvione nelle stesse zone colpite dal terremoto di 2 anni fa. 2.500 ettari di terreni allagati, 1.000 sfollati, molti capannoni con problemi. A effetto giorno avremo il presidente della provincia. Accordo europeo sulle emissioni di CO2, abbattimento del 40% entro il 2030, obiettivo ambizioso, dice Barroso. Nei giorni scorsi la lettera degli industriali italiani, soglia irrealistica, avevano scritto, è dannosa per la competitività. Maxi operazione contro la Camorra, anche a Roma, molti beni sequestrati, un imprenditore che stava per essere arrestato si getta dalla finestra e si toglie la vita. La Corte dei Conti boccia il piano di riequilibrio finanziario di Napoli, il comune prepara la difesa, rischio dissesto, ospite tra poco il sindaco Luigi De Magistris. 22 gennaio 84, esattamente 30 anni fa, durante il Super Bowl, uno spot firmato da Ridley Scott lanciava il primo Macintosh che sarebbe stato presentato 2 giorni dopo da Steve Jobs, l'inizio della grande cavalcata di Apple. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete potete commentarle al 349-238-6666 con gli sms, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno oppure scrivendomi su Twitter Simone Spezia. Iniziamo dalle vicende dell'Ucraina. È appena stata abbattuta dalle agenzie la dichiarazione del presidente della Commissione Europea, José Manuel Durão Barroso, che dice sostanzialmente stiamo valutando la possibilità di azioni che possano essere prese a livello europeo. La giornata di oggi racconta di un'altra giornata di scontri, della polizia che spara e di vittime tra i manifestanti. Un poliziotto inginocchiato in braccio a un fucile, le spalle coperte da altri 2 militari e spara non un colpo ma una serie di colpi in direzione dei manifestanti. Accade attorno alle 8 di mattina a Kiev. Qualche minuto più in là i manifestanti comunicano che i morti sono 2, poi saliranno a 3. Un ragazzo è morto cadendo dal colonnato dello stadio, gli altri 2 sono stati colpiti a morte da colpi d'arma da fuoco. Lo conferma anche la Procura Generale ucraina. Scene di guerra, quelle che si vedono nel centro di Kiev, con carcasse di auto e autobus usate come trincee e sassi lacrimogeni sparati da una parte e dall'altra. La carica della polizia è stata violentissima. Molti feriti, 50 le persone arrestate. La situazione è esplosa ieri, da quando cioè sono entrate in vigore le famigerate leggi antiprotesta, approvate la settimana scorsa per alzata di mano e senza dibattito in aula dal Parlamento ucraino. Forti erano state le critiche dell'opposizione e quelle di Unione Europea e Stati Uniti, critiche stigmatizzate dal ministro degli esteri russo Lavrov che le aveva definite vergognose ingerenze. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi restiamo all'estero in apertura di Effetto Giorno e parliamo di quello che sta succedendo a Montreux, dove si è aperto oggi la conferenza cosiddetta Ginevra 2 per parlare della Siria. Molte dichiarazioni in questa mattinata, a partire da quelle del ministro degli esteri siriano Walid Mualem, che dice: mi dispiace che i rappresentanti di alcuni stati seduti in questa stanza abbiano il sangue dei siriani sulle mani. Ma parla anche l'opposizione, si rivolge alla delegazione di Damasco e dice: diventate liberi come noi, abbandonate il regime. Ci sono anche le dichiarazioni del ministro degli esteri Emma Bonino, che dice, che chiede un immediato cessate il fuoco per consentire l'accesso degli aiuti umanitari in Siria. Abbiamo in linea Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che ci accompagna sempre su queste vicende. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Come si apre questa conferenza di Montreux e che speranze ci sono? La speranza forse più concreta sarebbe quella di arrivare almeno a un temporaneo cessate il fuoco per avere, come chiede Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, un accesso umanitario, cioè i famosi corridoi umanitari, ma già questo sarebbe un grande risultato. Quanto a un accordo di pace, mi sembra totalmente da escluderlo in questa tornata di negoziati, perché le parti hanno già espresso oggi la loro non volontà di arrivarci, diciamocelo francamente. Del resto ricordiamoci cosa durò quanto durarono le trattative per la Bosnia. Iniziarono nel 92 e dopo migliaia e migliaia di morti si conclusero nel 96 a Dayton, 4 anni dopo. Alberto, brevemente, anche se lo abbiamo in parte già commentato anche ieri, pesa anche naturalmente l'assenza dell'Iran a questo negoziato, che è un attore importantissimo in quello scenario. Ma non c'è dubbio che questo mancato invito dell'Iran possa anche peraltro rappresentare un alibi per un possibile fallimento di questa prima tornata dei negoziati, no? Un alibi, un fondo un po' precostituito. Certamente si tratta di una mancanza notevole, di un'assenza notevole, perché al tavolo ci sono altri paesi direttamente coinvolti nella guerra civile siriana. Questa non è soltanto, come sappiamo, una guerra civile, ma una guerra per procura che rispecchia in gran parte il conflitto tra sciiti sunniti e all'interno dello stesso mondo arabo sunnita. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Prima di ritornare a Bruxelles per parlare dell'accordo, o meglio della proposta della Commissione di un taglio del 40% delle emissioni serra per il 2030, c'è un aggiornamento importante che arriva, e arriva sempre dall'estero, anche se ci riguarda direttamente, perché lettere con minacce terroristiche legate alle Olimpiadi invernali di Sochi sono arrivate nelle sedi dei comitati olimpici di Italia ed Ungheria. La notizia è stata diffusa dall'ANSA e confermata da fonti internazionali. Se avremo altri dettagli, naturalmente ve li daremo. Veniamo all'accordo sulle emissioni, o meglio la proposta della Commissione europea sulle emissioni, con la nostra Valeria De Rosa. Valeria. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, questa mattina la Commissione ha trovato l'accordo e ha poi presentato il piano sul clima e l'energia con gli obiettivi al 2030. Si tratta comunque di obiettivi vincolanti, e questo ovviamente aprirà ancora una volta la discussione all'interno dell'Europa. Ricordiamo gli obiettivi al 2030, appunto, che sono il 40% di emissioni in meno e il 27% di rinnovabili sul totale. Secondo molti si tratta di obiettivi ambiziosi, tra questi c'è anche l'Italia. Lo ricordavi prima, la lettera del presidente della Confindustria della scorsa settimana inviata alla Commissione europea. L'Italia però non è la sola. Il vicepresidente e titolare della Commissione Industria, Antonio Tajani, aveva già paventato il rischio che molte imprese fossero poi costrette, dopo anni di crisi, a delocalizzare proprio per rispettare questi obiettivi. Il nodo centrale sarà sicuramente negli aiuti, non solo economici, che l'Europa dovrà mettere in campo per assistere le aziende in questo cammino, in questa trasformazione. In ogni caso, il presidente della Commissione Barroso ha detto poco fa che si tratta di una pietra miliare, della pietra miliare più efficace in termini di costi nel percorso verso un'economia a basse emissioni, e anche l'obiettivo di raggiungere il 27% di energie rinnovabili è un segnale importante secondo Barroso, perché rappresenta stabilità per gli investitori, stimola l'occupazione verde e rende più sicure le nostre forniture energetiche. Non è un caso che questa mattina la Commissione ha anche adottato l'Industrial Compact, cioè la strategia di rilancio per l'industria, che fissa come obiettivo il raggiungimento del 20% del PIL dal manifatturiero entro il 2020. A disposizione per ricerca, innovazione e competitività ci sono 150 miliardi di euro, in particolare per 6 settori: siderurgico, automobilistico, edile, turistico, industria della sicurezza e la cantieristica navale. Grazie alla nostra Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Noi adesso veniamo alla politica, iniziando però da un'altra notizia appena battuta dalle agenzie, che arriva dal Piemonte. Piemonte che ha presentato il ricorso al Consiglio di Stato per la questione delle elezioni regionali annullate dal TAR. Naturalmente a questo punto siamo in attesa di vedere come andrà a finire. Nel frattempo le tensioni nella maggioranza permangono, c'è stata una protesta abbastanza forte di Scelta Civica nei confronti del segretario del PD Matteo Renzi da parte di Alessandro Maran, lo ospiteremo più avanti, ma ci sono tensioni anche all'interno del Partito Democratico, di nuovo, ce le racconta Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, proprio così Simone, non c'è pace nel PD, il presidente del Friuli Deborah Serracchiani, renziani, attacca il ministro bersaniano Flavio Zanonato, ricordiamo a capo del Dicastero dello Sviluppo Economico, perché nella gestione della crisi Electrolux non ha dimostrato l'equilibrio necessario per ricoprire il suo incarico, dovrebbe dimettersi, dice Serracchiani. Ricordiamo che sono 4 gli stabilimenti della svedese Electrolux in Italia, tra i quali uno a Porcia in provincia di Pordenone, dove si producono lavatrici, e ci sono proprio le problematiche per l'occupazione, a rischio circa 200 dipendenti. Questa mattina comunque c'è stata anche la riunione settimanale della segreteria del PD alle 7:30 al Largo del Nazareno, ricordiamo all'indomani delle dimissioni da presidente di Gianni Cuperlo. Supereremo questa situazione, non mi pare drammatica, spiega il portavoce della segreteria Lorenzo Guerini, che esclude il rischio scissioni del partito. Cuperlo ha preso questa decisione, continua Guerini, credo che si sentisse stretto tra il ruolo di presidente e di capo della minoranza interna. Ora la nuova presidenza verrà decisa dall'Assemblea nazionale quando sarà convocata. Intanto la prossima settimana la segreteria PD si riunirà sul nuovo patto di governo, ovvero sull'agenda di governo 2014. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle ha iniziato il suo referendum online tra i suoi iscritti per discutere di legge elettorale, parleremo anche di questo più avanti. E però vogliamo parlare di questioni fiscali, quello che è stato definito il Black Friday, il venerdì nero della finanza locale, si avvicina e prosegue il nostro viaggio, tutti i giorni in onda alle 7 e qua in effetto giorno. Oggi Roma. Roma, centro assistenza fiscale della UIL, sede centrale di via Cavour, ultime ore di calvario per i contribuenti chiamati a versare entro venerdì la maggiorazione della TARES e la mini IMU, e tra bollettini errati o non arrivati per la prima e difficoltà di calcolo per la seconda, la confusione regna ancora sovrana. Uno Stato, io mi aspetterei che, se vuole le tasse da me, che perlomeno mi dia delle indicazioni precise. Quindi confusione, rabbia, cosa prevale? Tempo perso, sentirsi come delle trottole. Siamo qua a cercare di capire, di non cadere nella trappola, che uno che può pagare, oppure uno è mal disposto a pagare, quindi fa fatica a capire. E sono come sempre gli anziani ad avere maggiori difficoltà. Nemmeno il bollettino mi è arrivato ancora, non so nemmeno che devo pagare, come devo pagare. L'afflusso però in questi giorni qui a via Cavour non è molto consistente, al di sotto delle previsioni. Federica Scanzani, responsabile comunicazione e formazione del CAF. Abbiamo cercato di potenziare il servizio al meglio, ampliando anche l'orario di apertura delle nostre sedi, anche se l'affluenza è in netto calo rispetto ai giorni precedenti e rispetto soprattutto alla campagna IMU di dicembre. Ma c'è un altro motivo per cui l'affluenza è stata minore del previsto. Molti tralasciano il modello F24 pensando che basti pagare solo il bollettino della TARES. Alessandra Donati, responsabile area fiscale del CAF. La paura è che magari noi non abbiamo incontrato una fetta delle persone interessate da questo versamento della mini IMU, che non sono venute perché, ricevendo questa comunicazione, sono contenti perché dice: ah, una volta tanto il comune mi ha mandato già l'F24 compilato. E invece non si rendono conto che quello è un'altra cosa. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Marco Cucca, il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, un disastro, eh? Sì, buongiorno a tutti. Sì, in effetti è un disastro. Non solo i CAF sono in difficoltà, ma anche i commercialisti si trovano in grossissima difficoltà per dare supporto ai cittadini in questo momento di forte confusione fiscale. Ma c'è anche confusione, immagino, persino tra i vostri iscritti. Sicuramente, i nostri studi sono, ripeto, in grossissima difficoltà. Abbiamo chiuso il 2013 in piena emergenza fiscale perché sono stati prorogati gli acconti delle tasse di novembre, c'è stata incertezza totale sugli acconti IVA, il saldo dell'IMU sulle seconde case ha creato incertezza fino all'ultimo momento. Abbiamo aperto il 2014 mantenendo questa totale incertezza con la nuova minimo, il saldo della TARES. E quindi con le nuove imposte comunali E si aggiunge il fatto che adesso non si sa che cosa succederà delle detrazioni, perché ieri il Ministero dell'Economia ha precisato che non avverrà il taglio lineare, però come il margine di incertezza resta e insomma la scadenza per decidere mi pare che sia all'incirca una settimana, perché siamo al 31 gennaio, no? Anche su questo aspetto regna la totale incertezza. Noi abbiamo richiamato più volte al rispetto dello statuto del contribuente, a dare certezza nel mondo fiscale, un mondo così delicato, per dare l'opportunità agli operatori specializzati di lavorare con qualità al servizio dei propri clienti e quindi per fornire anche tranquillità ai propri clienti, appunto. Invece purtroppo vediamo che per qualsiasi tipo di intervento l'incertezza norma sovrana, insomma, regna sovrana. Grazie a Marco Kuchel, presidente Associazione Nazionale Commercialisti. Buon lavoro a lei e naturalmente ai suoi associati. Prima della viabilità e poi subito dopo parleremo di una grande operazione anticamorra che c'è stata oggi a Roma, vogliamo parlarvi di un altro elemento di cronaca. La Procura di Milano ha chiesto l'arresto di Fabio Riva e parliamo delle vicende di Ilva. Raffaella Calandre a Palazzo di Giustizia. Raffaella, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In sostanza il meccanismo è questo, le accuse sono queste: aver creato uno schermo fittizio per poter avere soldi pubblici, aver creato un'Ilva svizzera soltanto per permettere all'Ilva italiana di accedere ai finanziamenti previsti dallo Stato per andare in soccorso di quelle aziende che hanno problemi di pagamento con i committenti esteri. Ruotano intorno ad una presunta truffa da 100 milioni di euro le ultime accuse contestate da Milano a Fabio Riva, figlio del patron del polo dell'acciaieria Tarantino, raggiunto da misure cautelari insieme ad altre quattro persone, un funzionario della holding Riva Fire e soprattutto i vertici della finanziaria svizzera Eufin Trade e della Ilva Elvetico, che Elvetica è creata appunto solo con lo scopo, secondo l'accusa, di poter rallentare i pagamenti invece già ricevuti dai paesi di mezzo mondo che erano gli acquirenti finali dei vari prodotti, e così con questi ritardi rendere possibile alla holding della famiglia la Riva di accedere a quei finanziamenti stabiliti dalla legge Ossola per andare in soccorso delle aziende che hanno difficoltà quando i committenti esteri non paga. In questa maniera così ingiustamente avevano questi soldi pubblici quantificati dal 2007 ad oggi in circa 100 milioni di euro, un sistema che è stato confermato ai magistrati anche da un collaboratore interno dell'Ilva, come riporta il GIP Fabrizio D'Arcangelo nelle 40 pagine della sua misura cautelare. Questo è soltanto l'ultimo filone delle accuse che anche Milano contesta ai Riva. Grazie Raffaella, c'è la viabilità, ci troviamo tra poco, molti argomenti tra cui la situazione di Modena dopo l'alluvione e il rischio di dissesto finanziario per Napoli. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Lettere con minacce terroristiche legate alle Olimpiadi invernali di Sochi sono arrivate nelle sedi dei comitati olimpici d'Italia ed Ungheria. Conferma il CONI, dice: noi siamo sereni. In Ucraina nuove violenze durante le proteste a favore degli accordi con l'Unione Europea. Ci sono due vittime tra i manifestanti. Polizie e contestatori si fronteggiano ancora. C'è la condanna di Bruxelles. Stiamo valutando azioni. Deborah Serracchiani chiede le dimissioni di Flavio Zanonato da ministro dello sviluppo economico, dell'industria. Ancora tensioni dunque nella maggioranza. Scelta Civica attacca Renzi, il nostro partito ridicolizzato e preso a calci. Maxi operazione contro la camorra anche a Roma, 250 milioni di beni sequestrati. Un imprenditore che stava per essere arrestato si getta dalla finestra e si toglie la vita. Vogliamo parlare in apertura di questa seconda parte di quello che succede a Modena. Che cosa succede? Succede che c'è stata un'alluvione in zone già colpite in parte dal terremoto di due anni fa. Emilio Sabatini, presidente della provincia, buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose? Ci fa un po' di numeri per gentilezza? Sì, l'area, l'ha già detto lei, è l'area del terremoto, perché riguarda i comuni già colpiti dal sisma. È un'emergenza difficile perché non ci troviamo di fronte ad una piena, ma alla rottura di un argine. Oggi l'acqua, la lava d'acqua sta lambendo l'area industriale che viene tutelata con la costruzione di un argine di finale miglia. Siamo di fronte a milioni e milioni di metri cubi d'acqua che hanno invaso un territorio di un'area di circa lungo oltre 30 chilometri. Parliamo di un migliaio di sfollati nei centri di accoglienza allestiti dalla protezione civile. Poi ci sono le persone che hanno attraverso la propria famiglia creato una propria organizzazione, quindi non siamo in grado di certificarle. Naturalmente. Molte di queste si sono rifugiate in piani alti, ma oggi manca da domenica manca l'energia elettrica e quindi si trovano in condizioni di difficoltà. Due comuni più colpiti hanno tuttora i centri invasi dall'acqua. Parliamo di 1800 imprese ferme, una viabilità provinciale e statale bloccata, quindi un'area isolata dall'area nord del nostro territorio, 2500 ettari di produzione agricola invase dall'acqua. Cioè è una situazione drammatica, ci sono 1000 persone tra la protezione civile, forze dell'ordine, militari che stanno intervenendo a sostegno, a tutela della popolazione, a controllare. Immagino Presidente che chiediate lo stato di emergenza e oltre a questo? Sì, lo stato di emergenza la Regione sta già predisponendo gli atti, ha bisogno di quantificare i primi dati, ma dopo rimane il problema del ripristino, certo. Perché lo stato di emergenza non risolve la fonte di questo problema, ma sono le ore successive al dramma che si sta... E qui si apre il tema del ripristino, perché i danni saranno, io credo, di qualche centinaia di milioni d'euro. Qualche centinaio di milioni di euro, sì, perché parliamo di realtà, parliamo di abitazioni, pensiamo al settore del commercio, pensiamo alle imprese che avranno macchinari che dovranno essere sostituiti, pensiamo ad un'agricoltura dove c'è un'area pregiata di vitivinicoltura dove le piante rischiano il soffocamento se non sarà liberate subito dal fango e dall'acqua. Si arriva al miliardo, secondo lei? Molto non brevemente, lo so, non abbiamo, ma alcune centinaia di milioni di euro certamente sicuramente. Allora, Sabatini, le prometto che terremo i riflettori accesi sulla zona. Nel frattempo io la saluto e la ringrazio, buona giornata. Grazie a voi. E saluto adesso un altro amministratore locale, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, benvenuto ad Effetto Giorno, sindaco. Buongiorno, grazie. E la chiamiamo per quale motivo? Perché ieri la Corte dei Conti ha bocciato il piano di rientro che avete predisposto, che il Comune di Napoli ha disposto per evitare quello che è un rischio di vero e proprio dissesto finanziario. Naturalmente non abbiamo ancora le motivazioni della Corte dei Conti a tutti gli effetti, però insomma all'interno di questo piano sono previste, se non sbaglio, nell'arco dei 10 anni 800 milioni di dismissioni pubbliche. Di dismissione di beni pubblici, no? Mi sbaglio, De Magistris? Corretto, scorretto? È chiaramente complessa, cerchiamo in modo sintetico di fotografare. Sì. Io quando sono diventato sindaco, la situazione era questa: 1,5 miliardi di debito, 850 milioni di disavanzo. Siamo rientrati in questa legge, si chiama decreto legge 174 per i comuni in predissesto, dove bisogna preparare un piano di riequilibrio in 10 anni. Noi abbiamo fatto in pochissimo tempo dei passi da gigante, ovviamente il percorso è un percorso lungo, non ci aspettavamo questa decisione, che però alla quale aspettate le motivazioni faremo ricorso, siamo molto fiduciosi perché, tanto per dare qualche dato, noi abbiamo quasi completato il processo di riduzione del disavanzo, non so, i creditori, per dare qualche altro dato, a Napoli quando sono diventato sindaco venivano pagati a quasi 4 anni di distanza. Oggi siamo a meno di 1,5 anni e a fine 2014 arriveremo a 90 giorni. Questa decisione è una doccia fredda perché rischia, se non viene rivista, di interrompere questo processo virtuoso, faticoso, perché i cittadini ne stanno pagando le conseguenze, perché le tasse sono molto alte, la legge impone dei tagli significativi, però voglio dire con particolare orgoglio che il Comune di Napoli, nonostante sta in predissesso, in questi 2 anni non ha licenziato un lavoratore e non ha messo sul mercato i servizi pubblici. Questo appunto dal punto di vista dell'opera che avete fatto, però come si diceva la bocciatura della Corte dei Conti è su un piano di prospettiva che evidentemente la Corte dei Conti dei Magistris ha giudicato non credibile, nel senso che, pur prendendo per buono, no, quello che ci dice lei dal punto di vista del lavoro che avete fatto dal momento nel quale si è insediato, e però qua c'è un piano di prospettiva che secondo la Corte dei Conti non regge. A parte dobbiamo vedere le motivazioni, perché poi bisogna avere da un lato rispetto, dall'altro la possibilità di criticare, perché poi una sezione regionale della Corte dei Conti di controllo non è il Vangelo. Il tema è questo che mi lascia perplesso: la Corte dei Conti deve avere soprattutto una funzione in questo piano di riequilibrio, di accompagnamento del piano. Cioè è impensabile che in un anno, con quel debito, con quella situazione, col conflitto sociale di Napoli, con una situazione devastante nel paese, non è che Napoli può diventare Ginevra o Lugano. Quindi noi abbiamo bisogno di essere accompagnati, di essere corretti laddove ci sono delle cose che possono essere corrette, ma i progressi sono innegabili. Cioè noi abbiamo i dati e anzi siamo fonderevoli, li faremo pubblicare su internet, perché è bene che si comprenda la partita che si sta giocando a Napoli e anche probabilmente di rivedere alcune leggi che affidano probabilmente processi democratici così complessi a degli organismi che non so se fino in fondo riescono a leggere quello che sta accadendo in città e nel paese. Cioè, quindi, secondo lei la Corte dei Conti non sa leggere quello che succede nel paese e quindi non ha saputo giudicare il vostro piano di rientro? Non mi faccio litigare con la Corte dei Conti. No, però, motivo. Però le parole sono parole. Allora gliela interpreto, la spiego meglio. Il sindaco di Napoli non può, come il sindaco di Milano e il sindaco di Torino, esclusivamente dire in un anno, per rientrare da un debito così pesante, licenzio tutti i lavoratori di Napoli, sciolgo tutti i servizi da partecipare, chiudo le scuole, chiudo gli asili nido, come ci disse un anno fa Monti. A quel punto, voglio dire, succede, lo può immaginare lei, che può succedere in una città come Napoli. Allora noi dobbiamo risanare un paese, questo intendo io. La differenza certe volte è questo, che la sezione generale di controllo della Corte dei Conti fa una valutazione esclusivamente certe volte di dati che sono numerici, che sono ragionieristici. Noi invece amministratori dobbiamo trovare una quadra tra un risanamento doveroso, che Napoli lo sta facendo in modo secondo me incredibile rispetto a quello abbiamo trovato, però senza farci esplodere una città, perché se la città esplode alla fine altro che Corte dei Conti, controllo di bilancio, altre cose di questo tipo. Allora, De Magistri, so che il ricorso sarà presentato alle sezioni riunite della Corte dei Conti, no? Se non sbaglio, e entro 30 giorni si dovrebbe avere la risposta? Allora, entro 20 giorni noi dobbiamo sapere le motivazioni. Poi abbiamo 30 giorni per presentare il corso. E le sezioni riunite 30 giorni per 30 giorni. Quindi a Pasqua facciamo così, ci risentiamo per Pasqua, se non prima per altre questioni e per altre vicende, ci risentiamo per Pasqua così vediamo com'è andata a quel punto, ok? Io sono molto fiducioso e vi ringrazio perché abbiamo bisogno anche di una corretta informazione, grazie. Grazie De Magistris, buona giornata, noi restiamo in qualche modo in Campania perché c'è stata una maxi operazione contro la Camorra che in realtà poi ha coinvolto anche Roma, sentiamo. 90 ordini di arresto e beni sequestrati per un valore complessivo di 250 milioni di euro sono i numeri della maxi operazione anticamorra coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia eseguita stamattina in Campania, Lazio e Toscana. Obiettivo il clan Contini, attivo soprattutto a Napoli. Fra i beni sequestrati ci sono anche locali e noti ristoranti nel centro storico di Roma. Esercizi aperti con i proventi delle attività illecite del clan, secondo gli inquirenti. Nella capitale, nel corso dell'operazione, un imprenditore destinatario di uno degli ordini di arresto si è tolto la vita. All'arrivo degli agenti l'uomo avrebbe finto un malore e poi si sarebbe lanciato dalla finestra del suo appartamento al quarto piano in una palazzina nel quartiere Fleming. Giuseppe Cristarelli, 43 anni, era accusato di riciclaggio, estorsione e usura. Dopo il suo suicidio, gli inquirenti hanno deciso di annullare la conferenza stampa prevista per la mattinata, mentre la procura ha aperto un fascicolo e ha già ascoltato la moglie dell'imprenditore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una pausa, la borsa poi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ritorniamo alla legge elettorale per parlare del fatto che questa mattina Beppe Grillo ha lanciato dal suo blog il primo atto della consultazione online per elaborare una proposta del Movimento 5 Stelle. Si può votare dalle 10 alle 19 per decidere in questa prima fase solamente tra maggioritario e proporzionale. Saluto Francesco Campanella, senatore del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. A volte piuttosto critico, l'ho sentita nelle settimane scorse, con queste modalità, insomma, di consultazione online. Queste modalità in qualche modo sono nel nostro DNA. Il problema è, secondo me, che bisogna essere al tempo stesso pazienti con chi si misura con le difficoltà concrete di realizzarle ed estremamente esigenti nell'obiettivo finale, quindi sui meccanismi, su come vengono messi in opera. Io ho lamentato in più occasioni, cioè nella precedente occasione e in questa, il fatto che una consultazione che ha inizio alle 10 viene comunicata per esempio a me in questa, cioè oggi alle 10.39. Sì, sì, le agenzie sono uscite alle 10.05, quindi insomma immagino più o meno i tempi siano quelli, insomma. E poi questo orario un po' da ufficio, no, senatore Campanella? 10.19 è una consultazione online, non si può fare dalle 6 del mattino a mezzanotte magari? Infatti il problema che poneva era questo, cioè penso a qualcuno che va al lavoro e che non ha uno smartphone, insomma, non è detto che i nostri attivisti tutti ce lo abbiano, che magari si collega la sera al ritorno dal lavoro per qualche minuto e si accorge di non aver potuto votare. Specialmente dopo una seconda volta nel giro di una decina di giorni, io diciamo che da attivista sarei un po' scornato per questo, se passi il termine. Ma senta, ma come mai avviene questo, Campanella, secondo lei? Ma io non lo so, immagino che siano delle questioni organizzative definite a livello tecnico dalla Casaleggio. Non saprei dirle, non ho avuto modo di interloquire su questo punto. Quindi forse un problema interno allo staff e all'organizzazione dello staff. Dal punto di vista più puramente politico, Campanella, è una domanda che abbiamo rivolto anche al suo collega alla Camera, al suo collega deputato Danilo Toninelli ieri. Ma non è che siete un po' in ritardo, nel senso che a questo punto il Partito Democratico sembra aver preso il pallino della questione sulla legge elettorale. Ora, dal blog di Grillo si dice che la proposta arriverà entro la fine di febbraio, però insomma sembra un po', insomma, non dico che i giochi siano fatti, e però se c'era la possibilità di prendere il pallino in mano un po' l'avete perso. Diciamo che tenere il pallino non significa aver vinto la partita. In ogni caso, su un piccolo blog che gestisco mi sono già espresso su questa cosa. Credo che fondamentalmente sia opportuno riconsiderare i tempi, provare a contrarli in modo tale da arrivare ad avere una proposta definita o quantomeno nelle direttrici generali mentre il dibattito è ancora in essere al Senato. E secondo lei è stato un errore non incontrare Renzi, insomma non aprire al dialogo in genere con il PD e con le altre forze politiche sulla legge elettorale? Secondo me il dialogo va sempre ricercato, però voglio segnalare una cosa che mi pare stia passando un po' in ombra. Il modo in cui Renzi ha approcciato la questione non è stato un tentativo di apertura di dialogo quanto l'ostentazione dell'apertura di un dialogo. Cioè, se lei vuole effettivamente parlare con un'altra persona, non lo fa dalla finestra urlando per farsi sentire da quelli che passano per strada. Fondamentalmente voleva in qualche modo acquisire il dato e fare, diciamo, diffondere l'idea che noi non volessimo parlare con nessuno. Noi vogliamo parlare con tutti in Parlamento, perché fondamentalmente questo siamo stati chiamati a fare e questo anche lui è stato chiamato a fare. Lui doveva semplicemente formulare un'ipotesi all'interno del partito e farla rappresentare dai suoi rappresentanti parlamentari nelle sedi opportune. Grazie Francesco Campanella, senatore del Movimento 5 Stelle, e saluto anche un altro senatore, Alessandro Maran di Scelta Civica. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora, lei si è dimesso da relatore alla legge sul finanziamento ai partiti, in netta polemica con il Partito Democratico, dicendo addirittura il nostro partito è stato ridicolizzato e preso a calci. Abbiamo solamente un minuto, Maran, ci spiega perché? È una cosa molto semplice, ritengo che non possa andare bene, che Scelta Civica serva per sostenere i provvedimenti del governo e tirare la carretta quando le cose sono difficili, e spesso sono difficili perché le posizioni all'interno del Partito Democratico sono articolate, per usare un eufemismo, e poi quando si azzarda Scelta Civica a dire la propria opinione venga zittito e ridicolizzato. Evidentemente le due cose non possono andare insieme. Se è così, vabbè, vediamo. Noi ci riteniamo, almeno io mi ritengo a questo punto, restituito alla libertà. di poter proporre e sostenere le mie opinioni, e al sostegno complessivo del provvedimento ci pensi il PD. Ci pensi il PD a questo punto? Ho una domanda molto rapida, visto che insomma ce l'ho qua, lei no... Sulla legge elettorale, visto che lei è, insomma, è in commissione affari costituzionali, anche se è quella della Camera che opera e non quella del Senato, c'è qualcosa di preciso che non vi convince nella proposta Renzi? Le preferenze? No, su questo ci sono ovviamente le posizioni più disparate, ma non è una posizione di Scelta Civica quella di rimettere le preferenze al proprio posto. E faccio una battuta, che in Italia non sono mai esistite: prima dei referendum c'erano i numeri, 4 numeri per il Parlamento, 5 numeri per il Parlamento europeo, ed era il partito che forniva la legittimazione morale di quel numero del 10, del 5, quindi non sono riproponibili in quella forma. Il punto è quello più debole, quello della soglia. La soglia del 35% sembra fotografata sui rapporti di forza attuali, e quindi ci vuole, no, ma, ci vuole una soglia diversa. In un contesto così basso, ammettere il ballottaggio, insomma, raggiungere una soglia più alta per evitarlo, ecco. Grazie Alessandro Maran, senatore di Scelta Civica, per essere stato con noi. Abbiamo tempo, un minuto, prima di andare in viabilità e poi sentire Mario Platero, e ci sentiamo una vicenda che riguarda Apple. La storia di quello che per molti ha rivoluzionato il mondo del personal computer inizia con uno spot pubblicitario andato in onda durante la finale del Super Bowl il 22 gennaio del 1984. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Due giorni dopo, la Apple avrebbe cominciato a vendere il Macintosh e diceva lo spot diretto da Ridley Scott che il 1984 non sarebbe stato come il 1984, cioè quello immaginato da George Orwell nel suo romanzo. Nello spot si vede un atleta che lancia un martello contro uno schermo gigante dove un dittatore, il grande fratello di Orwell, parla ad una folla che lo segue ipnotizzata. L'allusione era al grande fratello dell'epoca, l'IBM, che Apple voleva scardinare. Molte delle innovazioni introdotte dal Mac vennero ispirate da una visita fatta da Steve Jobs nel 1979 ai laboratori della Xerox a Palo Alto, una vera fucina di idee nella Silicon Valley. Interfaccia grafica a finestre con le icone sul desktop o il mouse, insomma cose alle quali oggi siamo abituati e che proprio il Mac, 30 anni fa, rese popolari e disponibili al grande pubblico. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Viabilità e poi America 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero, un tempaccio, una tempesta di neve che ha avvolto la città tutta la giornata di ieri. La nevicata è cominciata nella prima mattinata ed è continuata incessantemente tutto il giorno, tutta la notte. Sta continuando a nevicare ancora adesso un pochino, poi più tardi, ci dicono i meteorologi, tutto dovrebbe calmarsi e dovremmo avere anche, chissà, forse un po' di sole, ma molto freddo. Questa è la notizia che domina in questo momento in città. Un'altra notizia che domina in città è a Wall Street, perché Eller Yan, che era uno dei grandi maghi della gestione finanziaria, lascia PIMCO, che è uno dei più grandi fondi di investimento mondiali. E diciamo che forse le cose da PIMCO non sono andate molto bene. Eller Yan era un presenzialista, un economista, faceva sempre dichiarazioni su un po' su tutto. Non credo che i risultati siano stati straordinari, soprattutto c'è stata una fuoriuscita di risparmiatori dal fondo. È uno dei fondi più grandi del mondo, pensate, oltre 1.700 miliardi di dollari in gestione. Infine, un'altra notizia interessante, prima di quella che secondo me è stata la notizia più importante della giornata, è una chiacchierata di Barack Obama con Vladimir Putin. Hanno parlato di varie cose, di Siria, ci sono dei problemi nel negoziato per la pace in Siria, dove andare l'Iran, proprio su pressioni russe attraverso una mediazione dell'ONU, poi gli Stati Uniti hanno posto un veto, quindi l'Iran non è più andato. Ma non hanno parlato solo di politica, Barack Obama si è impegnato a aiutare Putin per combattere il terrorismo in occasione delle Olimpiadi di Sochi. Ci sarà un flusso di tecnologia americana per aiutare la Russia. Ma restiamo su Obama e sulla notizia di ieri, cioè che la Casa Bianca ha annunciato che il Presidente degli Stati Uniti verrà in Europa il 24-25 di marzo per un vertice sul nucleare in Olanda, dopodiché il 26 andrà a Bruxelles, il 27 sarà a Roma per incontrarsi, soprattutto col Papa. Si incontrerà anche con il Presidente del Consiglio Enrico Letta, col Presidente della Repubblica, ma la grande attesa in America, dove la religione principale è la religione cattolica, ci sono 74 milioni di cattolici. C'è stato tra l'altro proprio ieri un incontro tra il sindaco De Blasio e il cardinale Dolan per cercare di organizzare invece un viaggio del Papa a New York. Ma parliamo della notizia di ieri, Europa e Papa Francesco, perché è nel segno di questi due appuntamenti a fine marzo, il primo politico, il secondo di grandissima rilevanza di immagine globale, che si articolerà questo viaggio di Barack Obama. E ci sono infatti due prime volte. Perché parlo di Europa? Perché è la prima volta che il presidente Barack Obama va a Bruxelles per un vertice con la sua controparte europea. Ci sarà un vertice, diciamo, ai quartieri generali dell'Unione Europea, un incontro di Barack Obama con la Commissione, con il Consiglio d'Europa, ma soprattutto è la prima volta che Barack Obama si incontrerà con Papa Francesco. Ed è ovvio che il momento centrale di questo viaggio di Obama sarà proprio l'incontro col Papa, perché sul piano dell'immagine, del global reach, è uno di quegli appuntamenti che potranno fare scintille, generare entusiasmo, intanto per gli imprevisti che sicuramente avremo grazie alla creatività di comunicatore, a questa straordinaria informalità di Francesco, per l'emozione del primo incontro, per la storia personale di Barack Obama, una storia di emancipazione, di uguaglianza, che rappresenta insomma un messaggio che coincide col messaggio centrale proprio di Papa Francesco. First of all, he seems somebody who lives out the teachings of Christ. Ecco, Obama sul Papa. Obama ovviamente ha espresso parole straordinarie nei confronti di Papa Francesco. Per prima cosa ha detto il Presidente, e mi sembra che viva davvero nell'insegnamento di Cristo, con incredibile umiltà, un grande senso di empatia verso i più poveri. Mi sembra che il suo approccio sia quello di abbracciare le persone piuttosto che respingerle, e questo senso di amore e di unità si trova non solo in quello che dice, ma in quello che fa. Ieri la dichiarazione della Casa Bianca molto chiara: il Presidente discuterà con Papa Francesco il loro impegno condiviso per combattere la povertà e la crescente disuguaglianza. Vi ricordo che la disuguaglianza è uno dei problemi che sta crescendo enormemente negli Stati Uniti. C'è stato proprio lunedì, tra l'altro, alle Nazioni Unite un incontro con l'economista Joe Stiglitz, organizzato dalla missione italiana alle Nazioni Unite, proprio per parlare del problema della disuguaglianza. Stiglitz ha scritto un libro su questa tematica. Ma sentiamo Papa Francesco. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Una chiesa povera e per i poveri, il messaggio di Papa Francesco. Non so poi come reagirà la città invece che cerca la ricchezza, New York, quando ci sarà la sua visita, ma sicuramente è di questo che parleranno il Papa e Barack Obama quando si incontreranno a Roma. Visita importante col Presidente del Consiglio Enrico Letta, col Presidente della Repubblica, ormai un vecchio amico del Presidente Obama, Giorgio Napolitano. Però c'è un elemento che vi ho accennato all'inizio, e cioè che è molto interessante come in questo viaggio di Obama si vadano a visitare dei piccoli paesi, l'Olanda, il Belgio, ci sarà un bilaterale in Belgio, l'Italia, che è considerato un paese periferico dal punto di vista economico proprio per le difficoltà in cui ci troviamo, ma non ci sarà una visita in Germania, non ci sarà una visita in Gran Bretagna, ci sarà una visita in Francia, perché Obama vuole portare un messaggio europeo e rafforzare quella che è stata la posizione americana ormai da qualche mese, e cioè una posizione che punta a un rafforzamento dell'integrazione europea, e un messaggio forte alla Germania che, secondo gli Stati Uniti, secondo Barack Obama, sta seguendo troppo i propri interessi a danno degli altri membri dell'Unione Europea, perché di fatto la Germania è l'unico paese nell'unione monetaria che in questo momento sta crescendo bene, addirittura ha un surplus superiore al 6%, quasi il 7% del PIL, un surplus naturalmente commerciale. Ed è questo il messaggio forte sul piano politico che Barack Obama porterà in Europa. Chiederà all'Europa di procedere lungo le linee indicate al vertice di Los Cabos nel 2012, quando è stata promessa integrazione dal punto di vista bancario, quando si è identificato un processo, un percorso per procedere verso anche un'unione fiscale e addirittura un'unione politica. Bene, nulla di tutto questo è successo. Barack Obama dalla sua un modello economico, quello americano, che funziona e ha funzionato certamente meglio di quello europeo. Dunque, molto importante questo viaggio di Obama a Bruxelles, vi dicevo, il suo primo incontro dove hanno sede le istituzioni europee. Si parlerà di libero commercio transatlantico, c'è un negoziato in corso e dal punto di vista tattico anche questo è un elemento non secondario, ma ripeto, la caratterizzazione di questo viaggio sarà data da questa visita con Papa Francesco e sul piano politico da un messaggio forte che Barack Obama cercherà di portare per l'integrazione europea, un'integrazione che non debba giocare a favore dei singoli stati e dunque a favore della Germania. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, ha nevicato in continuazione, dunque ripeschiamo un grande classico americano, perché anche se non siamo più a Natale è sempre tempo di neve. Let It Snow di Frank Sinatra. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.